come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sai che non va la vita come ragazzo mio, ci sono volpi di codesto, fanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono. Ti sento in grande forma questa sera, Parenzo, in grandissima forma, in grande forma, in diretta. No, non mi dire che sei depresso pure stasera. Sono molto depresso. No, ancora, perché? Perché depresso? Sento la musichetta che è un po' come andare al bar prima di... Allora lì mi cambia l'umore. Ti carico a molla, ti carico a molla. Vabbè, comunque, le cose che abbiamo sentito in questi giorni mi convincono una volta di più che in realtà i parlamentari da 900 e passa, cioè, dovrebbero essere drasticamente ridotti. Diciamo che in totale, se fossero tra Camera e Senato, io cancellerei anche il Senato tout court. Sì, con un tratto di penna. Sì, con un tratto di penna. Trac. Perché ci vuole tanto tempo a fare riforme? Basterebbe un tratto di penna, il Senato è cancellato. Così porterei tutti a 400 persone, 350, eccetera, eccetera. Perché come dimenticare quello che ci ha riferito ieri l'amico Maurizio Grassano? Maurizio Grassano è un personaggio particolare, amico, sono tutti amici in realtà. Un signore che viene dalla Lega, poi è subentrato a Cota, al presidente della Regione Piemonte, poi è passato con i responsabili perché la Lega non ce lo voleva, poi è stato anche condannato in primo grado a 4 anni per truffa aggravata ai danni del comune dove era presidente del consiglio comunale, cioè Alessandria. Insomma, il signor Grassano, che poi ha fatto parte del responsabile successivamente di Popolo e Territorio, PT. Beh, insomma, è un personaggio particolare. Mi voglio riassumere, questo ha, come dire, a dimostrazione ulteriore che i deputati dovrebbero essere drasticamente ridotti. Io dico solo questo: il signor Grassani innanzitutto ha cominciato a dirci che lui al ristorante della Camera non ci mangia, perché nonostante il fatto che costa poco, eccetera eccetera, fa schifo e dunque non ci va. Io non ci mangio nel ristorante della Camera, mangio fuori, non mangio, cioè io ho fatto anche presente al dirigente, sembra una mensa aziendale, non un ristorante, si costerà anche poco, ma anche il servizio ma spenderà come un ticket, 15 o 20 euro per mangiare. Ancora sul ristorante della Camera, il motivo per cui fa schifo questo ristorante qual è? Sono problemi. Ma non tanto per il mangiare, ma per l'odore che c'è, perché entra, no? Probabilmente, dato che ci sono le cucine sotto, viene su tutto quell'odore terribile che era peggio ancora di una mensa aziendale, cioè... E come fai a mangiare con un odore così? È indescrivibile. E beh, come si fa a mangiare in quel ristorante della Camera? Sono problemi molto gravi. Infatti c'è una grande protesta in corso. Tutti i deputati protestano. Io non ho mai sentito nessuna protesta per questo odore del ristorante della Camera. Lui addirittura, il signor Grassano, che è stato anche ex Lib Dem, il movimento della Melchiorre, ha fatto addirittura una protesta formale, bontà sua, ai dirigenti della Camera dei Deputati su questo odore che verrebbe fuori dalle cucine della Camera. Hanno veramente la faccia come... Come cosa? Come il cucù. No, ma puoi dirlo tranquillamente. Poi, essendo deputato e volendosi anche ricandidare, perché Berlusconi gli ha promesso la ricandidatura... Se lo merita, con tutto quello che ha fatto per il nostro paese, se lo merita. Però sostiene che Camera e Senato non servono e andrebbero spazzate via. Sentiamo. Parlamento non l'ho inventato io, porco, io ci sono capitato. Ci sono capitato, così come tutti gli altri, no? Ci sono capitati. Guardi, forse per me, sai cosa farei io? Io il Parlamento lo eliminerei, secco, via. Eliminiamo sia la Camera che il Senato. Dice quello che vede, secco, via. Poi ne mettiamo uno solo che comanda su tutti. Mettiamo uno solo, poi eliminerei anche i ministri, sottosegretari, tutto, mettiamo uno che comanda su tutto. Eh beh, è uno che viene eletto che comanda, ma sa quanti soldi risparmieremo? Così tutti i cittadini italiani sono contenti, li eliminiamo tutti. A parte che diversi ascoltatori ci segnalano che il ticket può variare da 5,5 euro, da 6 regione, euro, certo. 7 euro il ticket del ristorante, non 15 euro come ci dice Grassano. Lo stesso Grassano che, diciamo la verità, se fossimo in una situazione di normalità farebbe il suo mestiere, cioè, no! Il suo mestiere, che è quello del geometra, per carità, per grande rispetto, però mestiere assolutamente da rispettare. E lo stesso Grassano è stato condannato, come abbiamo detto, a 4 anni, eccetera eccetera. Noi siamo garantisti, naturalmente. Ma infatti nella commissione bilancio, proprio perché condannato a 4 anni e mezzo, l'hanno messo nella commissione bilancio. Visito le carceri per portarmi avanti. Cosa pazzesca. Forse scherzava, però non troppo. Io per portarmi avanti col lavoro sono già andato a visitare 3 di carceri. Sono andato a visitare il carcere delle Vallette di Torino come parlamentare, il carcere di San Vittore di Milano e il carcere San Michele di Alessandria. Certo, mi sono portato avanti col lavoro, no? Ammetto che un domani in carcere non vado dietro, così conosco già tutti. Va bene, insomma, questo insieme alle cose del Grana Padano che stanno impazzando, dopo ne parleremo, caro Parenzo, dopo ne parleremo. Sono diventate motivo di culto. Su internet c'è di tutto su questa storia del Grano Padano che giustificherebbe l'esistenza della Padania, e allora si sono scatenati tutti, il basilico sulla Basilicata, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa vi regalo? Beh, vi regalo il ministro Fornero. Il ministro Fornero. Io avevo capito, devo dire la verità, che, ma questo è un concetto che ripeto ormai da giorni, avevo capito che questa era una crisi gravissima. Ed è una crisi gravissima. Che c'era un governo emergenziale che sospende, diciamo, il normale funzionamento dei partiti, delle maggioranze, eccetera, eccetera, perché c'è una situazione che bisogna affrontare di petto. Cioè, bisogna fare delle scelte rivoluzionarie, dei sacrifici. Bisogna scontentare qualcuno, bisogna soprattutto intervenire ora e subito e in maniera drastica, non senza troppo. Io questo avevo capito fino all'altro giorno. Questo dovrebbe essere. Senti però il ministro Fornero a proposito della riforma pensionistica. Ministro del lavoro. Senti. Una riforma pensionistica largamente già fatta, i cui tempi potranno essere accelerati. Cioè, la signora Fornero, grande esperta di riforme delle pensioni, di pensioni, per carità, non vogliamo dubitare, non vogliamo mettere in dubbio questo, dice che sostanzialmente la riforma pensionistica in Italia è stata già fatta. Sì, come no, è stata fatta? Poi... Ma di che stiamo parlando? No, cioè, parla dei tempi. Ho capito, ma qui bisogna anticipare, ma che ci vuole, scusa un attimo, ma che ci vuole il governo tecnico per anticipare la riforma delle pensioni? Il governo precedente non l'ha fatto, amico mio. No, ma ho capito, ma ci vuole un governo tecnico per anticipare la riforma delle pensioni? Beh, evidentemente sì, perché quegli evidentemente altri c'è qualcosa in più da prendere, qualche decisione in più da prendere sulle pensioni. Questo no? me lo auguro la prendano da subito. Dopodiché, fino ad ora anche solo. Ma chi è che mi chiama sotto da numero sconosciuto? Ma io non lo so. Ma non lo sanno che sia la Zanzara? Posso rispondere un attimo al telefono? No. Certo, c'è l'intervallo, tra poco c'è l'intervallo. Ezio Mauro, direttore di Repubblica: il governo è lento rispetto alla velocità della crisi. L'hai capita te questa cosa? Comunque sentiamo. Abbiamo scritto col pezzo di Massimo che il governo è lento. È lento rispetto alla velocità della crisi e anche al fatto che la crisi non ragiona coi criteri della politica e delle istituzioni, ragiona coi criteri dei mercati, che hanno una logica binaria, che cosa conviene e che cosa non conviene. Quindi ragiona la crisi senza le sfumature. La crisi ignora la luna di miele e in qualche modo se l'è già mangiata e aspetta le misure. Va bene. Che c'è ancora? Che c'è? Taggio per Guarguaglini, Finmeccanica. La nomina è pronta. Sì, De Magistris. La nomina è pronta, ripeto, messaggio per Guarguaglini, Finmeccanica. La nomina è pronta. Il sindaco di Napoli dà un compenso, poi sta a voi giudicare, di 220.000 euro a Roberto Vecchioni per il Forum delle Culture a Napoli. Qualcuno sostiene che con tutti i problemi che ha Napoli, dare 220.000 euro a Vecchioni, che per carità naturalmente sta sul mercato e si fa pagare, sia una follia. Però io lascio a voi il giudizio. Sentiamo De Magistris. L'opinione mia è che il presidente Vecchioni deve avere un compenso adeguato, così come hanno un compenso adeguato i grandi artisti, i grandi cantanti, i grandi giocatori. Ovviamente deve essere un compenso che tenga conto del momento di difficoltà, che tenga conto di Napoli, e non è affatto vero che Vecchioni dia un contributo part-time, perché Vecchioni sta dando e darà un contributo che se ne accorgeranno non solo tutti i napoletani, se ne accorgeranno nel paese tutti coloro che verranno al forum. Il forum delle culture. Non ti sembra strana anche questa cosa, caro Parenzo? Non ti sembra strana questa cosa, al di là del forum delle culture, la polemica, quando si danno i soldi ad un artista per un ritorno d'immagine, per un ritorno magari per fare degli spettacoli, per incassare va sempre bene. Forse 220.000 euro l'anno per una cosa del genere, il comune di Napoli se lo può risparmiare, però non lo so. Hai perfettamente ragione. Dopodiché, questo è un sindaco eletto con tanti voti, si assume la responsabilità di prendere un grande artista come Vecchioni per il forum delle culture. Ne risponderà. Dopodiché mi può far sorridere cos'è il forum delle culture, poi magari ci confronteremo per capire cos'è il forum delle culture. Dopodiché ti ricordi quando a Milano il presidente della provincia Penati fece l'assessorato per la pace? Io andai ai matti. L'assessorato per la pace. Io andavo ai matti per queste cose qui. Senti una cosa, a parte che oggi il Senato ha deciso, poi vedremo nella pratica, però, perché l'annuncio è sempre stato fatto, di abolire i vitalizi dalla prossima legislatura. Ma al di là di questo, non ti sembra un po' strano che a un certo punto sia la Merkel che Sarkozy oggi hanno detto che sono impressionanti le riforme strutturali proposte da Monti? Giustamente qualcuno si è chiesto, ma scusate, ma ce lo volete far vedere queste riforme strutturali, oppure lo sanno solo le cancellerie straniere, la Merkel e Sarkozy? C'è un deputato del PDL, credo che sia l'ex sottosegretario Crosetto, che ha detto: beh, adesso chiamerò gli ambasciatori in Francia e in Germania per farmi dire se magari mi faxano queste proposte che noi non abbiamo visto, queste riforme strutturali impressionanti. Ti voglio segnalare che la CGIL dice: bene la Fornero, non bisogna fare cassa sulle pensioni ma guardare i giovani. A me vabbè, lasciamo perdere. Siamo qui 800 24 00 24. Andiamo subito a Piero da Rimini. Buonasera, dica. Volevo dire, io sono molto spaventato, tra virgolette, di questa cosa di Monti che... Spaventatissimo. Perché non continua a dire quello che magari abbiamo avuto la vecchia guardia che parlava anche troppo prima, ma questi non parlano per niente. Cioè, cosa si aspetta? In genere è meglio non chiacchierare e fare, su questo non c'è dubbio. Sì, prima parlavano, si contraddicevano, tornavano indietro, andavano avanti, facevano un passo di lato, trattative di qui, trattative di là. Chiamavano la vitola. Anche qui sei fissato con sto la vitola. Anche qui, ma non è che la vitola decide essere sorti del governo, non esagerare. Piero, il problema è che mi sembra che ci sia un po' di... Si cincischia un po' troppo, quello sì. Però e poi aspettiamo, parlare. Magari ci saranno dei provvedimenti meravigliosi, stupendi, rivoluzionari nei prossimi giorni. Sentire parlare la Merkel o Sarkozy e dire impressionanti misure, cioè voglio dire, io penso che... Non le conosciamo, sì è vero, non le conosciamo e loro ci dicono che sono impressionanti, questa è la realtà, su. Si mette un po' di angoscia, no? No, per me magari fossero impressionanti le riforme strutturali, magari, cioè quale angoscia? Io non sono angosciato per niente, il problema è semplicemente che Merkel e Sarkozy evidentemente hanno visto le cartelle o i fogli che gli ha presentato Monti, ma noi non sappiamo nulla, su questo non c'è minimo dubbio, Piero, per cui queste impressionanti riforme strutturali o gliela raccontate a loro oppure nei prossimi giorni le illustrerà a noi volgo, come dire, a noi popolino. Andrea, provincia di Palermo, buonasera. Ciao Cruciani, senta, io ti attribuisco un ruolo messianico. No, lei non deve attribuire nessun ruolo messianico al sottoscritto e soprattutto non mi dia del tu perché sennò mi offendo. Allora ti do del lei pure a me. Allora, infatti ho dato del lei. In queste sere, sentendo questi politici, ma mi offendo nel senso, era uno scherzo naturalmente, Andrea. Non lo so, adesso non so più come lo scherzo e come ma no, era uno scherzo, no, anche perché sentendo questi politici veramente ho pensato che potreste avere un ruolo sociale importantissimo da qui alla prossima legislatura. Ho fatto il calcolo che all'incirca basta ospitarne 2,3 al giorno per ogni trasmissione che fai, per renderci conto di quello che ci gestisce, delle persone che ci gestiscono. ed è una cosa terrificante, perché anche l'orario è sbagliato nella trasmissione. Dovreste farlo la mattina, perché la sera poi uno torna a casa talmente incazzato che viene a menare tutti. E perché uno dovrebbe menare tutti? A sapere che ci sono questi politici che ci amministrano. Ma sorrida! Sorrida col signor Grassano. Per fortuna il signor Grassano non amministra nulla. Cioè, no, non è solo Grassano, non se l'è cavata meglio. Il signor Buonanno, Giovanardi, né Buonanno, per carità, io sono un siciliano, guardo le cose in un certo modo e devo dire che veramente c'è di che vergognarsi. Comunque continuate così, è un piacere sentire. Vabbè, grazie. Daniele, provincia di Bologna, buonasera. Buonasera. Dica, allora, Daniele. Parto subito con... Parta subito, all'attacco, parta all'attacco, subito. Come me lo carichi? Ridateci il puzzone. Come? Ridateci il puzzone. Ah, ridateci a Berlusconi, dice lei. Perché? Però comunque, ragazzi, cioè, non possiamo essere così. Cioè, Monti era Super Mario, tutti quanti, l'attesa messianica e tutto. Adesso sono passati 15 giorni, io sono molto critico sin dall'inizio, dunque sono inattaccabile. Però voi non è che potete ripensarci subito. Io do anche delle spiegazioni perché rivolgo Berlusconi. Perché vuole Berlusconi? Ma lei lo voleva sin dall'inizio Berlusconi, però mi viene da pensare, o no? Certo. Lei non è che rivuole Berlusconi, lo vuole sempre. Lo voglio perché questo Monti metterà Lici sulla prima casa e Berlusconi non l'avrebbe mai fatto. Vabbè, Lici sulla prima casa, se sarà infatti in un certo modo, non sarà un dramma. Sarebbe arrivata comunque col federalismo, una tassa sulla casa sarebbe arrivata in ogni caso, dai. Le riforme delle pensioni sull'anzianità non l'avrebbe fatta. Ma non lo so, riforma delle pensioni pare che non sia così, vogliono solo anticipare i tempi. Ma lei lo sa cosa vuole fare Monti? Poi bisognerà vedere sull'anzianità, io non lo so cosa vuole fare Monti, questo è il grande dilemma, è questo. Adesso speriamo che nei prossimi giorni noi poveri ignoranti, poveri, come dire, mestieranti saremo informati, oltre alla Merkel e a Sarkozy. Di quello chiedere un suo parere sulla stampa e sulle trasmissioni così accontestanti verso Monti. Ma guardi, l'abbiamo già detto nei giorni scorsi, l'abbiamo detto ampiamente nei giorni scorsi. Di una melassa che mi fa venire, come si chiama quella malattia quando uno mangia troppo zucchero? Ma no, ma ti fa venire il voltastoma, a me fa venire il voltastomaco, che è la prima volta in vita mia che non dico al 100%, ma sono leggo alcuni editoriali del Fatto Quotidiano e sono d'accordo, per cui figuriamoci. Ilia da Roma, buonasera. Ilia, la signora e tutti voi, Ilia. E tutti gli ascoltatori. Eccoci, dica. Allora, ascolti, io mi sono angosciata perché ieri sera l'ennesima volta ho avuto la disgrazia di sentire sulla vostra radio un senatore, non lo so chi è, un cialtrone che si permetteva di dire che l'odore della cucina della Camera lo disgustava, tanto lui voleva fare addirittura, non so cosa, parlamentare, riunire tutti. No, riunire tutti, non esageriamo, no. Ha detto che ha fatto una protesta, ha già fatto, con i dirigenti perché c'è un brutto odore. Cos'era che andava a trovare i carcerati perché ci aveva una spinta? Non ho capito bene se andava per prendere voti, no, non so perché. No, ma adesso Lidia, cosa faceva? Non ho capito perché se non ha capito è incazzata perché non ha capito. E spesso mi capita di sentire le cose, poi magari la gente mi parla, sono in commercio e quindi abbasso la radio e mi sfuggono delle virgole. Però insomma mi è sembrato veramente offensivo sentire che noi abbiamo questi politici che ci governano, è veramente drammatico. Ho pensato che se andava a trovare i signori nelle carceri potevano levare qualcuno che forse meritava di stare fuori e buttare le chiavi infilando questo signore. Vabbè, Lidia, questo francamente mi sembra esagerato. Ma guardi, siamo governati veramente, Cruciani, guardi, lei è una persona con uno spessore etico e morale, io la seguo ogni giorno, sono molto alto, e mi lasci dire, Cruciani, ho i miei limiti anch'io, ma lei fa la differenza, allora mi creda, mi creda, è veramente ingiusto che questi signori si permettono di stare in posti dove dovrebbero stare. Ma io non ci voglio andare là, grazie Ilia, grazie, non dico che lei ci debba il ministro andare. Ornaghi, grazie Cruciani, Ilia, grazie, Cruciani, il ministro Ornaghi, abbassatemi l'audio, il ministro Ornaghi è contento perché i beni culturali si potrà assumere, dal 1 gennaio si potranno assumere 308 persone in più. Vale. È una buonissima notizia, invece di diminuire i dipendenti. Ti rendi conto o no? Beni culturali, Ornaghi al via 308 assunzioni, attingendo alla graduatoria degli idonei dei concorsi dell'ultimo quadriennio. E via! Bloccare tutto, bloccare e via con le infornate, via con le infornate. Mi sto ricredendo. No, speriamo di no. Chi c'è qua? Luca da Genova, c'è. Luca da Genova. Aspettate un attimo con questa musichetta. Luca da Genova. Sì, adesso ci tagliano. Luca, veloce, sennò ci tagliano, via. Allora, senta un attimo, io penso che a questo punto ci hanno preso per il culo, ma grandemente. Cioè? Vabbè, perché giustamente è arrivato questo governo di tecnici. Allora? Allora, la tracciabilità sui 300 euro. Ma ancora non hanno fatto nulla, sono tutti annunci e quello è il problema. Per adesso annunci, manco quelli, certo. Parole, cose un po' generiche, però noi speriamo in Superman. Nei prossimi giorni ci saranno provvedimenti meravigliosi, stupendi, rivoluzionari. A tra poco dopo il giornale radio. Caro David, ci sei? Come potrei non esserci? Lei è l'unica fonte di divertissement questa trasmissione. E sai che ho ricevuto ottime segnalazioni su questa trasmissione? Sì. Spero che inizi a sentirla anch'io, la Zanzara. Allora, c'è il comune di Salerno. No, adesso chissà cosa ha tirato fuori il signor Cruciani. No, no, leggo. Mi sento già male. Leggo che il logo del comune di Salerno, nuovo logo, perché c'è bisogno di un nuovo logo del comune di Salerno. Era fondamentale per lo spread. Era fondamentale. È costato 200.000 euro. No, un logo. Hanno fatto un concorso. Ma che cos'è, una mozzarella? Hanno fatto un concorso e alla fine sono arrivati alla conclusione, cioè è costato, insomma, 200.000 euro. Vabbè, ma un logo. Sono tempi di vacche molto grasse, ci si può permettere anche questo. Andiamo a sentire i titoli del nostro amatissimo TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Merkel e Sarkozy con Monti, sostegno all'Italia, impressionanti le sue riforme strutturali, dice la cancelliera, ma torna a salire lo spread. Il Presidente del Consiglio, pareggio di bilancio nel 2013, ma serve una politica per la crescita, con l'unione fiscale possibili gli eurobond. La riforma delle pensioni è già stata largamente fatta, ma servono tempi più rapidi, dice il ministro Fornero, maggiori sacrifici, ma non per i più deboli. Anche il Senato taglia i vitalizi dalla prossima legislatura, Bersani bene, il governo sulle pensioni, ora la patrimoniale, Nichi Vendola, ospite al TG3. Ultimo giorno di lavoro allo stabilimento Fiat di Termini Imerese, il dolore e la rabbia degli operai da domani in cassa integrazione e senza futuro. Napolitano, codice deontologico per giudici e PM, confronto costruttivo tra le toghe e la politica e invita a comportamenti rigorosi. Il ministro Riccardi a Villa Literno sulla torre di Jerry Maslow, l'immigrato africano ucciso nell'89, il processo di integrazione sarà serio e maturo. Siamo qui. Non so se abbiamo, se possiamo ripescare, perché volevo fare una carrellata di quello che è accaduto in questi giorni, no? Al di là della vicenda Grassano, ripeto, io farei un appello qui, Presidente Monti, per quello che lei può fare, perché poi sta al Parlamento, dimezzi il numero di parlamentari, la prego, no? Tra tante riforme urgenti che ci sono, credo che questo, che questa sia una delle più importanti, giusto? Fai un appello anche tu, Parenzo, dalla Zanzara. Presidente Monti, lei è stato eletto a furor di popolo salvatore della patria. Eletto è una parola grossa. Comunque, eletto dal Parlamento. Nominato, ha avuto la fiducia, dal Parlamento, a furor di popolo. Sì. Merkel e Sarkozy le hanno messo una mano sulla testa, benedicendola come l'uomo che salverà l'Italia dal default. E allora faccia una sola riforma, una, dimezzi il numero dei parlamentari, amico mio. Allora, le portiamo come dimostrazione di quello che bisogna fare. Un Grassano sulla puzza del ristorante. Poi facciamo un appello anche ad altri parlamentari. Fateci sapere se davvero c'è questa puzza che esce fuori dal ristorante della Camera. Che noi siamo preoccupati per la vostra salute. Preoccupatissimi. Ma non basta per mangiare, ma per l'odore che c'è, perché entra, no? Probabilmente, dato che ci sono le cucine sotto, viene su tutto quell'odore terribile che era peggio ancora di una mensa aziendale, cioè. E come fai a mangiare con un odore così? È indescrivibile. Possiamo andare a ripescare il signor Gaglione che si è ripresentato da poco? Gaglione. L'amico Gaglione super assenteista con 93%, eccetera eccetera, ma lo mandiamo fra un po'. Mandiamo invece il Grana Padano, avanti, Grana Padano. Sì, quello è buonissimo. Ma il Grana Padano perché si chiama così? O perché esiste il Gazzettino Padano? Hai detto che non esiste la Padania e invece la Padania esiste. No, ma la Padania esiste. È un modo per dire che se c'è questo termine, questa terminologia, è perché la Padania esiste. Rosa tua rossi, mi riesca a me. è romanocentrica, ha chiamato il Gazzettino Padano Padano perché c'è la Padania, e il Padano è Padano perché esiste la Padania. Ci siamo noi perché se non ci fosse la Padania l'Italia sarebbe già nell'Africa. Gaglione per voi, Gaglione versus D'Agostino qui alla Zanzara su Radio 24, sentite. Lei conosce il lavoro parlamentare? Lei conosce i lavori parlamentari? Lei va, perché lei non si presenta lì alla Camera? Ma io proprio oggi ho visto la possibilità di fare una buona politica, sono ritornato. Quando c'è stato il modo di fare una buona politica, risponde, sono stato lì. Risponda alla domanda, perché lei guardi, va a lavorare? Lei sa che cosa io ho fatto da senatore e da sottosegretario alla salute? Non me ne frega niente. Come che non ne posso niente? Però scusi, Gaglione, scusi un attimo, se la interrompo. Mi scusi, no. Io non voglio che lei dica, non me ne fotte niente delle cose positive. No! Siamo qui, 800 24 00 24. Ma scusa, ma anche fare una leggina, che sì, uno che non si presenta mai, sì, mai nel suo luogo di lavoro, perché il luogo di lavoro di Gaglione è il Parlamento. No, è anche, la clinica, è anche la clinica pubblica e privata dove lavora, evidentemente. Ma la clinica sono fatti suoi, cioè non è che... Questo secondo lui, naturalmente. Appunto, quindi se uno non si presenta dopo un tot di sedute, va con due parole a casa, subito. Allora, novità da un ministro finalmente, il ministro Balduzzi, che è ministro della salute, sì, ministro della salute. Sì. Ministro Balduzzi ci fa sapere delle cose. Beh, come fai a dire che è una brava persona? Questo no, lo do per scontato. Così, dalla fisionomica me lo dice. L'amico Balduzzi ci fa sapere una cosa fondamentale per il futuro del governo. No, senti, una cosa fantastica. Di contenuto, ieri a 8:30 sono sbagliato, una cosa di contenuto serio. Fare presto, ma fare anche bene, senti. A noi è chiesto di fare presto, ma è chiesto anche di fare bene. Le due cose non sempre si sposano esattamente e credo che il nostro impegno in questo momento è proprio quello di tenerle insieme. Questa è una roba fondamentale. Mi sento meglio ora, Dopo che ho sentito il signor Balduzzi mi sento meglio. Il ministro della salute d'altra parte deve far sentire meglio tutti noi, no? In teoria. Per cui bisogna fare presto ma anche bene. Ma neanche i democristiani facevano ma chi le scrive queste cose? Ma chi le scrive queste cose? Il dramma è che non sono. Ma sono tutte persone competentissime, tutte persone fantastiche. Noi adesso, per carità, ce li prendiamo in giro perché insomma anche loro un po' brancolano, no? Però nei giorni scorsi il signor Giarda, che è ministro, se non sbaglio, dei rapporti con il Parlamento, che è un grandissimo economista, persona che conosce molto bene il bilancio dello Stato, per carità, un tecnico di grandissimo valore, a un certo punto cita la sonnambula di Bellini. Senti. Sì. Devo dire preliminarmente che sono un po' imbarazzato a riprendere i miei interventi alla Camera dopo 11 anni e 6 mesi e ho la tentazione di fare una citazione della sonnambula di Bellini, l'aria iniziale di Raimondo, quando dice: vi ravviso luoghi ameni in cui lieti, in cui sereni si trascorsi i giorni della mia gioventù. Cosa? La lirica è il mio forte, grazie. Professor Giarda. Rimandiamola, però ci addormentiamo. Se uno in macchina alle 19:30 sente questo, va a sbattere contro il muro subito. Paolo La Spezia, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Guardi, si ricorda quando Moretti disse a D'Alema: D'Alema, dici qualcosa di sinistra. Io vorrei dire al professor Monti, dice qualcosa di tecnico, perché qua grande attesa e noi aspettiamo solo tasse. Allora, se c'è da aspettare le tasse, ci andavo io a fare il Presidente del Consiglio, no? Beh, adesso voglio dire, noi vogliamo delle cose strutturali, rivoluzionarie, non l'ordinaria amministrazione. Non ci piace l'ordinaria amministrazione. Quindi, patrimoniale, dici. Vabbè, adesso lei la mette subito sulle nuove tasse, perché io sono contrario a tutte le tasse possibili e immaginabili. Però entro il 9 novembre che cosa ci possiamo aspettare dal professor Monti per raccogliere 15 miliardi, giusto, aumentare le tasse? Qua il vero problema, no? È che in Italia non si sente nessuno parlare come negli Stati Uniti del Tea Party, no? Il vero problema qua è diminuire la dimensione dello Stato, ridurre e sparire. Lo Stato si deve ritirare da tutta una serie di attività, come si è visto. Poi gli effetti sono Finmeccanica eccetera, di questa ramificazione dello Stato. Bravo, bravo, bravo. Lo Stato deve dettare le regole e ritirarsi da gran parte delle altre attività. Gran noi parte, lo dice. Il coraggio di farlo, perché tutto questo costa, tutto questo fa perdere voti, ed è lì che sono i sacrifici, no? Nel far perdere i privilegi e nel farla finita. Bravo, bravo. Ha privatizzato tutto, bravo, certo. Di saccheggio proprio, no? Bravo, bravo. Ha ragione, andrebbe privatizzata anche la mafia. No, ma ora la mafia è, ora la mafia è pubblica, no? È evidente che è gestita dal pubblico la mafia. Andrebbe, se fosse privata, si riuscirebbe a combattere anche meglio. Invece è pubblica, anche la mafia è pubblica. Per vedere come, se non altro negli Stati Uniti, un tipo di dibattito di questo tipo esiste, no? Sì, cui, no, ma assolutamente. Guarda, non è che sono Paolo, Paolo, io le darei la medaglia come ascoltatore della serata per il momento. La ringrazio. Sandro da Milano, buonasera, signor Sandro. Buonasera, buonasera. Dica, dica. Due cose veloci. La prima per lei, Cruciani, la seconda per Parenzo, così almeno siamo pari. E per quanto riguarda lei, Cruciani, io è un po' che la sento, lei insiste sempre sulle pensioni di anzianità che vanno tolte subito. Sì, poi c'è il programma di la Marcegaglia, che ha fatto il programma di Confindustria per dire a Berlusconi cosa andava fatto. Vabbè, ma quello che c'entra, scusi. Ma signor, no, per dire una riflessione sul governo Berlusconi. Alle elezioni politiche i cittadini votano un programma politico, non votano tanto una persona. Ed è quel programma politico allora che una coalizione deve portare avanti. E nel programma politico di Berlusconi non c'era il taglio delle pensioni, non c'era l'articolo 8, non c'era la divisione dei sindacati, tutte queste cose non c'erano. C'era la vendita del patrimonio dello Stato, il taglio delle province, la lotta all'evasione fiscale, le riforme, tutte cose che Berlusconi non ha fatto, per cui è stato un bene che sia andato via. Vabbè, ma quello che sia un bene o un male, io non lo so, può darsi di sì. No, però scusi un attimo, Sandro, adesso non è che ci possiamo accontentare del fatto che è stato un bene. Ormai abbiamo archiviato questa cosa. Berlusconi è andato, non è più presidente del Consiglio. Ieri a un certo punto, Parenzo, un tifoso durante la partita, nell'intervallo della partita Milan-Barcellona a San Siro, gli ha chiesto: presidente, quando è che ci abbassa le tasse? Pensando forse che Berlusconi abbia ancora voce in capitolo. E giustamente Berlusconi gli ha risposto: ma guardi, io non conto più niente ormai. Non conto più ragione, nulla. Disarmato, disarmato. Bene, 19:34, 800 24 800 24, ci sei? Sempre quando lei chiama. Non lo so, ti vedevo assente, non avevo bene. No, assente. Maurizio, provincia di Roma, buonasera. Vita difficile. Maurizio? Sì. Pronto? Dica. Dunque, senta, io volevo fare un'osservazione forse un po' scioccante. Se il momento è così tragico, e forse è vero, come si dice, siccome tutti sono resti a fare sacrifici, perché il Presidente della Repubblica non dà l'esempio e rinuncia al suo appannaggio di qualche centinaio di migliaia di euro l'anno, e così può chiedere ai politici, alle varie associazioni, ai cittadini un sacrificio? Scusi, però abbia pazienza, non mi sembra che lo stipendio di Napolitano sia il centro del problema. Magari le spese in generale del Quirinale potrebbero essere ulteriormente ridotte, si è fatto sempre il paragone con Buckingham Palace, eccetera eccetera. Non mi pare che lo stipendio del Quirinale in questo momento sia il centro del problema. Forse non mi sono spiegato, non è il problema della quantità, dell'entità dello stipendio, è il problema di dare un esempio a tutti i vari politici, perché di per sé stesso il Parlamento costa una cifra, se vogliamo, anche risoria rispetto ai problemi di carattere generale, i problemi. Allora? Sì, esatto. Sono la marea di enti, di superenti, l'esercito di funzionari superpagati dello Stato che prendono stipendi e pensioni immorali. Immorali. Vabbè, allora? Ecco, se il Presidente della Repubblica, come parecchi sindaci, rinunciasse al suo emolumento, potrebbe chiedere con tutto diritto sacrifici a tutti i politici, a tutti i politici e a tutti gli italiani. Vabbè, Maurizio, lei secondo me la proposta shock di Maurizio dalla provincia di Roma. Francamente lei sbaglia a bersaglio. Grazie. No, per carità, poi si può risparmiare su tutto, anche sulle spese del Quirinale, perché ci sarebbe un sacco di cose da fare. Però insomma, adesso non è quello il punto. Fabrizio, provincia di Firenze, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Volevo dire, secondo me, a parte personalmente questa classe politica non mi ci rispecchio più e mi rappresenta veramente poco, sempre meno, diciamo. Ma io credo che generalmente rappresenti poco un po' tutti, perché non sta prendendo iniziative politiche fondamentalmente. sta prendendo solo iniziative mirate al risultato dei sondaggi elettorali, cioè si guarda a vista breve. Pronto? La sento. Allora... Si guarda a vista breve e siamo solo bravi a livello politico, parlo sempre, cioè a creare un governo tecnico, che poi di tecnico è, diciamo fra virgolette, cioè qui si mette dei buonissimi professori, personaggi noti, che devono gestire, poi il Parlamento rimane comunque politico e dovrà votare e far passare certe cose. Allora io ho un invito a Monti, dal momento a questo punto comunque ce l'hanno messo, visto che è stata scarsa principio di iniziativa dei politici, cioè inizi dai tagli dei costi della politica, ma quelli veri, cioè tagli tutto, diminuisca parlamentari come ha detto lei, diminuisca i costi, gli sprechi dalla politica. Qui ci vuole un messaggio forte e chiaro e un invito forte che i cittadini sentono, cioè tornano a avere il piacere di risentire proprio il senso dello Stato. Ho capito. Iniziare, dice lei, dai costi della politica. Da questo punto di vista, il Presidente del Consiglio può avere solo in generale, chiunque sia, una sorta di moral suasion. Oggi è venuto questo segnale dal Senato positivo, poi vedremo poi i fatti, perché sono sempre. Per carità, la Presidenza, il Comitato di Presidenza, non so come diavolo si chiama, ha deciso di togliere i vitalizi, abolire i vitalizi a partire dalla prossima legislatura. Peraltro, secondo me, l'abolizione tout court del vitalizio è anche un errore, perché... No, perché? No, tout court, chi ha una pensione all'esterno va bene toglierlo subito. Dopodiché chi magari ha fatto 10 anni, 15 anni e non ha nessun lavoro e non prende... Io credo che una soluzione... No, ma è per quelli nuovi, sarà, perché come sempre le riforme non è che le fanno retroattive, le fanno per i prossimi. No, cioè, certo. Questi qui dormono tra quattro guanciali di piume. Beh, tra quattro guanciali, c'era una norma, è difficile andare indietro nel tempo, non è che certo, quello... Non è retroattivo. I prossimi se la pigliano, arriva Luciano Padulo, cioè i prossimi senatori avranno, che non si chiama più vitalizio, quello che hanno tutti gli altri lavoratori italiani, uguale. Abbiamo il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, buonasera. Buonasera. Come sta? Come bene, sta? Benissimo, grazie, buonasera. Lotta come un leone sempre? Sempre in lotta. Sempre, ovvio. Senta, ieri era San Siro, no, per caso? Assolutamente sì. E a un certo come l'ha visto? Come era Berlusconi? No. In forma? Berlusconi era molto contento di come il Milan ha giocato, molto scontento del risultato, come me del resto. Vabbè, quello... Tutti noi tifosi rossoneri è stata una serata double face, dolce e amara. Senta, ma lei non, si aspetta adesso un ruolo di Berlusconi nel Milan, no? Più presenza, più incisivi, no? Decisioni che prende magari direttamente, perché l'ha sempre prese le decisioni, però comunque si aspetta che si impegni di più nel Milan e meno in politica, per esempio? Meno in politica no, ha detto anzi che raddoppierà l'impegno. Attenzione, Berlusconi ha fatto una novità importante, che ha detto che non sarà più lui il candidato premier del PDL, per cui ha aperto alla proposta delle primarie, sì, che è diventato ufficiale. Ma in politica non si fa soltanto Presidente del Consiglio, avrà un ruolo fondamentale, ecco, nel Popolo della Libertà. Che ruolo avrà secondo lei? Si immagini Berlusconi, che ne so, nel 2015, come se lo vede? Nonno fondatore. No, è nonno fondatore. Ma guardi, voglio dire, questi 15 anni sono stati dominati da un Berlusconi che nel Popolo della Libertà era, non dico tutto, ma era all'inizio di tutto, sia del partito sia del ruolo l'inizio del governo. E la fine di tutto, l'inizio e la fine di tutto. No, io parlo seriamente. È stato all'inizio di tutto e ricopriva il ruolo di Presidente del Partito e di Presidente del Consiglio. Adesso andiamo invece in un partito dove chi sarà candidato premier, chi sarà ministro, eccetera, eccetera, non avrà ruoli all'interno del partito. Questo vale anche per Berlusconi, per sua stessa scelta, ed è un'evoluzione che ritengo molto positivo. Il PDL diventerà ancora più forte. Quale sarà il ruolo di Silvio Berlusconi nel partito? Beh, questo avremo modo di parlarne nelle prossime settimane. Come se lo immagina lei? Avrà modo di individuare il ruolo nel quale si sentirà più congeniale. Ma secondo lei quale potrebbe essere il ruolo? Che ne so, il presidente del partito, presidente onorario del partito, semplice deputato? Qualcosa di più che onorario. Potrebbe essere il ruolo di presidente del partito, con un segretario che è Alfano, Berlusconi presidente del partito, come è già presidente del partito, e poi quando ci saranno le primarie invece sceglieremo chi correrà le primarie e poi il nostro elettorato sceglierà il vero candidato. Ecco, lei che è stato Scalfari, no? Scalfari fondatore di Repubblica, Ezio Mauro direttore, questo è Beh, insomma, un partito un po' diverso da un giornale, un po' più però complicato. Però no, non è sbagliata la un cosa. Partito, un partito deve prendere 12, 13, 14 milioni di voti. Un giornale quando vende... Vabbè, nel piccolo... Il modello. Il fondatore Eugenio Scalfari, direttore Ezio Vallo. Uguale, fondatore Silvio Berlusconi, Berlusconni ha innovato la politica italiana, non dimentichiamo. Sì. Senza Berlusconi, primi Berlusconi, il bipolarismo era impensabile. Quindi si è guadagnato un ruolo nella storia politica italiana di grandissimo rilievo. Senta, e adesso ha ancora una funzione da svolgere e la svolgerà. Senta, Presidente, però ieri a questo tifoso a un certo punto, che gli chiedeva: Presidente, ma le tasse io non conto più niente, mi è sembrato un po' abbacchiato, cioè non conto più niente, addirittura davvero non conta più niente ormai. Nel governo che si è formato non solo Berlusconi non conta più niente, ma il PDL non conta più niente. Beh, no? Come non conta più niente? Lo appoggia, l'ha votato. Sì, lo appoggiamo, ma il ruolo dell'esecutivo, cioè del governo, noi evidentemente abbiamo un ruolo nel Parlamento, il PDL è la forza parlamentare più grande, ma il governo... Il governo alla fine, e lo abbiamo accettato che fosse tecnico, sì, soltanto tecnici, spetta a loro fare le proposte. Ecco, ma non stanno un po' in ritardo? Anche lei non sta notando che è stato un sostenitore del governo tecnico, per carità, però non sta notando un po' di traccheggio, un po' di cincischiamento, non so come, che parola utilizzare. Di tatanella, come dice Parenzo. Cioè, mi sembra che dovesse essere governo d'emergenza, provvedimenti presi seriamente, drastici, subiti, immediati, questi ancora devono studiare. Qualcuno dice dobbiamo studiare qualche ministro, ho sentito. No, io credo che il Presidente del Consiglio Monti abbia le idee chiare, ne abbia già parlato con i suoi collaboratori, oggi in questi giorni gli incontri che ha fatto in Europa gli sono serviti ulteriormente, per cui io immagino e mi aspetto che la prossima settimana cominci a presentare i primi provvedimenti per far fronte alla crisi. Questo mi aspetto, e questi sono i tempi che in qualche modo erano preventivati. Sono tempi naturali. Non andrei al di là della prossima settimana, perché nel frattempo i mercati non si sono fermati, speculazione non si è fermata, si è visto che la speculazione, l'attacco all'Italia non era soltanto dovuto a quello che qualcuno indicava come il pessimo governo Berlusconi, colpa del governo Berlusconi, ci sono condizioni oggettive, bisogna cambiare queste condizioni oggettive, l'Italia deve riprendere a crescere presentando le riforme che devono essere fatte. Ecco, a proposito, non è sembrato bizzarro che per esempio oggi la Merkel e Sarkozy abbiano detto: beh, sono impressionanti queste riforme strutturali che vuole fare Monti. Molti giornalisti che erano lì, ma non solo giornalisti, anche deputati, dopo dei commenti, hanno detto: ma insomma, ce le facesse vedere anche noi queste riforme. Cioè, è abbastanza bizzarro tutto questo, no? O è normale? Indubbiamente il commento della Merkel e di Sarkozy ha stupito molti, ha stupito anche me, queste parole, questi aggettivi molto reboanti utilizzati hanno colpito, vediamo, ma probabilmente Monti gli ha descritto le linee fondamentali, immagino, voglio dire, gli ha descritto le linee fondamentali delle riforme che vogliamo fare, che il governo vuole proporre, che Merkel anche e Sarkozy siano rimasti positivamente impressionati. Vorremmo esserlo anche noi, però, impressionati. Mi aspetto e mi immagino che settimana prossima i primi provvedimenti comincino a delinearsi. Ma perché con Berlusconi ridevano invece? Questo non capisco, veramente sono un po' sono un po' così snob questi Sarkozy, e questo Sarkozy e questa Merkel, un po' snob. E di fatto hanno dovuto fare poi marcia indietro. Quel risolino era un gesto di scortesia non soltanto nei confronti del Presidente del Consiglio italiano, ma nei confronti dell'Italia. Soprattutto Sarkozy ha dovuto rinfoderare presto il sorrisino, perché si è visto che la speculazione internazionale attacca anche la Francia con la stessa violenza con cui ha attaccato l'Italia. Il dato dice che gli spread francesi sono oggi al livello in cui erano gli spread italiani 4 mesi fa, non 40 anni fa. Non possiamo gioire di questo, però diciamo che una certa piccola soddisfazione postuma l'hanno avuto in molti. Glielo dica Sarkozy, caro Sarkozy, dice Formigoni, ride ben chi ride ultimo. Speriamo appunto di riuscire a tornare a ridere, perché l'Europa deve comunque mettere in campo alcune riforme serie, altrimenti sarà veramente una situazione difficile per tutti, compresa la stessa Germania. Presidente, scusi un attimo, torniamo alle cose un po' di casa nostra, anche particolarmente. Sì, adesso la Padania glielo chiedo, perché in questi giorni si è riso molto e abbiamo riso moltissimo. Il grana padano e con altre cose. Però oggi c'è anche una notizia, che la signora Moratti Moratti, la signora Moratti, ormai dimenticata da quasi tutti, adesso non so cosa stia facendo perché è consigliere comunale, però insomma non è che dichiara molto, non si fa vedere così nel dibattito politico, ma questo potrebbe essere pure normale. Però dice che non rinnoverà la tessera del PDL, ma l'aveva presa sta tessera, Formigoni? Non ho capito. Sì, l'aveva presa, l'aveva chiesta e l'aveva presa l'anno scorso di quest'epoca, tra novembre e dicembre. Esatto, sì, prima delle elezioni. Prima delle elezioni. Poi non l'ha rinnovata perché il tesseramento del PDL si è chiuso il 31 di ottobre e non risulta tra gli iscritti. Dunque quella prima tessera che ha preso era un po' una paraculata, si può dire, una cosa del genere, una furbata. Non lo so, adesso è parecchio tempo che non sento Letizia Moratti, può anche essere che abbia maturato una scelta diversa, una linea diversa, come dice lei, è un po' di tempo che il Consiglio Comunale non si fa vedere, non si fa sentire, non lo so. Certamente il fatto è che ha scelto di non rinnovare l'iscrizione. Non mi pare un colpo per il PDL, non mi pare una perdita gravissima, così questo io lo dico. Voglio dire, comunque è stata una sua scelta che rispettiamo, che certo non fa piacere, ma... Però mi dica la verità, per il PDL non è un colpo mortale, in qualche modo era atteso, sopravviverete? Questo assolutamente sì, nel senso che PDL andrà avanti senza l'apporto fondamentale della signora Moratti. Con un grosso lavoro, ma torniamo ai discorsi che facevamo prima, PDL ha compiuto un'autotrasformazione importante, 1.200.000 iscritti veri, di gente che si è iscritta personalmente. Presidente Formigoni, un risultato straordinario che nessuno si aspettava. Presidente Formigoni è molto abile a uscire fuori da questa situazione, perché non vuole dire in realtà nulla di particolarmente, non dico offensivo per carità, ma di particolarmente pungente nei confronti della signora Moratti. Però io una cosa gliela vorrei fare dire, mi dica la verità, a lei del fatto che la signora Moratti non ha rinnovato la tessera del PDL in fondo non gliene frega assolutamente nulla, perché mi pare che l'apporto per il partito della signora Moratti qual è stato? Da 0 a 100, mi dica la verità. Zero, mi dica la verità. Formigoni è iscritta nel dicembre del 2010, purtroppo a maggio 2011 ha perso le elezioni, quindi è stata concentrata 5 mesi sulla campagna elettorale, che purtroppo è andata male, quindi non ha neanche avuto il modo e il tempo di dispiegare. Comunque si sopravviverà, insomma, no? Si andrà avanti lo stesso senza grandi drammi, no? Glielo garantisco. Senza grandi drammi. Lei ha parlato prima delle famose primarie, io però non ho mai sentito ufficialmente dire, siccome adesso ci saranno sicuramente chissà quando, perché chissà quando si voterà, magari fra 6 mesi, magari fra un anno, lei quando si augura che ci saranno le prossime elezioni? Guardi, io credo che si andrà a votare nel 2013 e comunque il Popolo Libertà ha detto con chiarezza che non pone nessuna scadenza al governo Monti, basta che il governo Monti rispetti il suo programma, quindi se il governo Monti ci porta fuori dalla crisi economica, ci porta a rispettare gli impegni europei, può dispiegare la sua azione da qui al termine della legislatura. Non c'è dubbio. Allora, quando ci saranno queste benedette primarie del PDL, io voglio sapere da lei una parola chiara: io, Roberto Formigoni, sicuramente mi candiderò. E io non gliela dico perché non ho maturato questa decisione. Guardi, io mi sono battuto in questi mesi per introdurre questa importante novità nel PDL, per fare in modo che i nostri candidati a qualunque carica monocratica fossero scelti con il consenso degli elettori. Sono felice di questa innovazione che servirà a partire dalle prossime elezioni amministrative di questa primavera, ma servirà anche per l'indicazione del nostro candidato premier. Dopodiché farò o non farò parte della gara, lo vedremo. Per ora non c'è nessuno iscritto, quindi non sono iscritto. Ma c'è tempo in realtà, però il suo nome circola molto, lasciamolo circolare. Poi bisogna iscriversi quando la gara verrà ufficialmente aperta, per ora non è stata ancora ufficialmente aperta. Guardate, vedremo, valuteremo. Per intanto felicemente svolgo il mio lavoro di presidente di Regione Lombardia, sono giunto al 16° anno, sto per cominciare il 17°, si svolge positivamente. Ma a questo punto, scusi, ma che senso ha? Secondo io davvero, da cittadino lombardo, dico che senso ha andare alle elezioni? In Lombardia, secondo me dovrebbe essere una legge ad formigonum. Non lo direi ai radicali, però questa cosa si arrabbia, no? Ma non ha senso, perché voglio dire, Formigoni è la Lombardia ormai, non è mai senso votare. Non c'è bisogno. Succederà, prima o poi succederà che Formigoni non sarà più presidente della Lombardia, non so dirle né quando, né come, né perché. Cioè potrebbe esserci addirittura un altro mandato. Né quando, né come, né perché. No, non ho detto, ha detto che prima o poi succederà che non... Ma addirittura lei dice potrebbe esserci un altro mandato. No, ma questo non ci l'ho detto, ho detto che prima o poi succederà. Beh, però, ma si può per la legge, per sì, dal punto di vista normativo, un altro mandato ancora, sì o no? Si potrebbe, non è no? Previsto, non è non previsto, è non è previsto neppure da me, quindi. Dunque, lo può dire tranquillamente, non c'è nessuna ipotesi di questo. Non c'è, non c'è. Vabbè, allora, non era Grana Padano, era prego, un attimo, perché... il Grana Padano ci arriviamo. Era o non era, era o non era Formigoni quello che a un certo punto davanti alla Camera ha esposto il dito medio e ha anche detto delle cose, insomma, che ha detto, non mi ricordo più, dito medio, poi che c'è stato, dito medio e... Non, prima di tutto non eravamo davanti alla Camera. Si pente, dov'era il Senato? Eravamo dov'era? Davanti a Palazzo Grazioli, siamo stati fatti oggetto di una contestazione vergognosa con attacchi e insulti personali. Si pente del dito medio. Ho reagito, non avrei dovuto reagire, l'ho detto immediatamente, non avrei dovuto reagire in quel modo, ma c'era amplissimamente la provocazione e torno a dire, quelle manifestazioni contro Berlusconi, contro il Popolo Libertà sono state vergognose e Dito medio di Formigoni è un must pazzesco, perché Formigoni non ha mai fatto queste cose qua. Ho già detto, ho detto subito che non avrei dovuto farlo, avevo ampliamente giustificato, ma non avrei dovuto farlo. Ma non è vero, non era il dito medio, stava chiamando un taxi, era col dito così, perché cercava un taxi. No, era una risposta chiara dai provocatori vergognosi, ma non avrei dovuto rispondere, avrei dovuto tollerare pazientemente. Ma noi guardi che non è dispiaciuta quella cosa, non è una cosa di umanità. Me l'hanno detta in tanti. Ma comunque non avrei dovuto farla lo stesso. Certo, molti le hanno detto hai fatto bene a fare quella roba là. Certamente sì, l'indignazione è stata moltissima contro queste vergognose manifestazioni. Senta, avvicini un attimo il telefono perché si è un po' staccato. Ma che vuoi il Grana Padano? Sì, l'altro giorno un deputato della Lega ha detto che la Padania esiste in quanto esiste il Grana Padano. Dunque la dimostrazione dell'esistenza della Padania è proprio provata dal fatto che c'è il Grana Padano, oltre che il Gazzettino Padano. Ma perché dobbiamo sottoporre Formigoni a questa tortura? No, faglielo sentire, che è giusto che sappia che ma sono giorni, però io darei vorrei una cosa. La Padania, diciamo la verità, ce lo dica lei che è lombardo al 100%, come si direbbe in inglese, 100%, sì. La Padania non esiste. Vorrei sapere da Formigoni una parola chiara su questo. La Padania non esiste. Allora, la Padania in quanto espressione di un'area che è geografica, che è industriale, artigianale, con caratteristiche analoghe, esiste perfettamente. Non esiste una Padania come organizzazione politico-statuale indipendente. E non esisterà mai. Mi auguro di no, io mi auguro che continuerà ad esistere un'Italia forte nella quale le regioni del nord, Lombardia in primis, vedano finalmente riconosciuta la propria virtuosità. Non c'è dubbio. Il problema è questo qui. È pratico, concreto, non immaginare uno Stato che si chiami Padania. No, abbiamo la pubblicità e torno subito. Questa non è la mia prospettiva, la mia prospettiva è quella di un federalismo autentico dove le regioni possano essere artefici del proprio futuro, possono avere dei gradi di autonomia molto superiori rispetto a quelli attuali, vedendo riconosciuta una possibilità di autogoverno che esalta l'eccellenza. Bene, siamo qui, caro Parenzo, dal Granducato di Siena, qui da Milano il sottoscritto alla Zanzara, poi c'è anche il presidente, c'è il presidente della regione Lombardia Formigoni da Milano, nostro ospite di questa sera. E voglio chiedere subito una cosa che riguarda la Lega, che nelle passate settimane ha detto che insomma la successione in Lombardia dopo Formigoni, quando ci sarà, spetta alla Lega. Lei invece è più perplesso perché comunque il PDL nei confronti della Lega in Lombardia ha più voti. Lei, tra i leghisti, tra i dirigenti della Lega, se dovesse scegliere un nome che le sembra quello più adatto alla guida della a succedere alla sua successione, che nome farebbe? Ma guardi, io una persona, la più adatta. Molta stima di tanti dirigenti leghisti. Io innanzitutto voglio esplicitare il mio pensiero. Mi auguro possa risaldare, quindi davanti alle prossime elezioni regionali decideremo insieme chi sono i candidati. Nel 2010 abbiamo deciso che i candidati in Veneto e in Piemonte fossero due leghisti, quindi era naturale che in Lombardia fosse un PDLino. Nel 2015, se andremo al voto contemporaneamente, sceglieremo insieme. Tutte le cose avvengono con naturalezza. L'importante è riconoscere che quando si sono sottoscritti i patti li si rispetta fino alla fine della legislatura. dunque è troppo presto ancora, però insomma, presto, dire, magari loro per la regione Lombardia comunque dopo tanti anni vorrebbero esprimere per la prima volta un presidente, questo è legittimo, ma è possibile, no? È possibile, possibile che questo sarà, questo però vorrà dire interrompere la bella esperienza che stanno conducendo Cota in Piemonte e Zaia in Veneto. Vabbè, non è detto, non è detto. In una coalizione è chiaro che ci vogliono rapporti equilibrati, quindi non è pensabile che tutto il nord vada allo stesso partito. Ah, ho capito, cioè se Cota e Zaia si ricandidano in Lombardia non è possibile avere un leghista. Probabilmente, ma comunque voglio dire, si faranno delle scelte equilibrate nel momento. No, ma questo è interessante. No, quindi ad oggi vuol dire che un leghista non può ambire, certo è vero, non può ambire. No, certo che non è detto, si potrebbe anche decidere appunto che ci fa un'alternanza per cui in Lombardia viene un leghista, in Piemonte e in Veneto tornano due pidellini, non lo so, lo vedremo, le elezioni sono appena state l'anno scorso. Però certo, quindi. non è concepibile l'idea che magari se Cota e Zaia si ricandidano, che in Lombardia ci sia un candidato, diciamo, del centrodestra. Guarda, ormai... mi sembrerebbe molto difficile che tutti vadano allo stesso partito, questo è, ho detto questo e di questo sono convinto. Sì, no, ma questo qua certo. Parenzo, che puoi chiedere ancora per chiudere? No, volevo solo capire questa storia del grana padano che mi ha veramente scioccato. Allora, facciamogliela sentire, tanto non l'ha sentita. Forse l'ha sentita, no, di meglio da perché fare, è impazzata, però... impazza su internet, è una cosa di culto, potete vederla su tutti i siti possibili immaginabili, l'onorevole Buonanno e il grana padano, dopo una freddura, se vuole, del presidente Formigoni. Ma il grana padano, perché si chiama così? O perché esiste il Gazzettino Padano? Hai detto che non esiste la Padania e invece la Padania esiste. No, ma la Padania esiste. È un modo per dire che se c'è questo termine, questa terminologia, è perché la Padania esiste. Formigoni, a lei. Ma confermo quello che ho detto prima, cioè che la Padania esiste come espressione di un'area geografica, produttiva, e come il grana padano, che c'entra il grana padano? Legata dalle stesse infrastrutture. Non esiste come stato indipendente, mi auguro che non esista mai. Bene, grazie. Arrivederci. Grazie, a presto. Dove andiamo? Andiamo a Bergamo. Valentina, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera, io ho chiamato prima perché in realtà quando si è formato questo governo tecnico ero rimasta un po' delusa dal fallimento della democrazia rappresentativa, perché mi chiedevo com'è possibile che con quasi 1000 parlamentari non ci siano delle personalità di spicco capaci di mettere in pratica quello che ci chiede l'Europa e quello che serve in questo momento. Poi in realtà, sentendo però le ultime uscite, anche questo del grana padano, dei ticket da 15 euro, mi sono chiesta, ma forse effettivamente nel nostro Parlamento non ci sono delle personalità in grado di gestire delle emergenze come questa? Ma ora, guardi, Valentina, io credo che essendoci tu, non è questione di Parlamento, perché in teoria i ministri non è che devono essere il governo, non è che deve essere per forza espressione di parlamentari, cioè qualsiasi cosa, cioè non... Si può avere anche un governo in cui non ci siano parlamentari, anzi, in teoria si dovrebbe essere così, ma o comunque un mix tra parlamentari e ministri che non sono parlamentari. Grazie Valentina. Maristella da Roma, buonasera. Sì, dica. Eccoci. Che stava facendo, signora Maristella? Mangiavo, veramente ero a cena. Cosa? Allora, ho mangiato una buonissima minestra di verdure, poi un'orata alla livornese insieme a una purea di melanzane. Beh, insomma, no, le verdure no, fa male le verdure, se non mangi mai verdure. No, come fanno verdure, male le verdure? Fanno malissimo. Malissimo frutta e verdura. Assolutamente no. Mi potrei trasformare da Maristella in una Maristel Polanco? No, adesso perché? Questo è buono, amico mio! No, perché si vuole trasformare una Maristel Polanco? Mi scusi. Beh, è più conveniente. Ma come? Da che punto di vista? Dipende. Adesso andrà in onda lo show a Milano di tutte le star nel red carpet del Palazzo di Giustizia. Sono tutti ansiosi. No. Fra poco ci sarà questo show, show con tutti i testimoni del governo del processo Ruby. Devo dire che non ci sarà, secondo me, la grande attenzione che ci sarebbe stata se Berlusconi fosse stato presidente del Consiglio. Insomma, sarebbe stato anche. Noi ci saremo, noi della Zanzara. Ma ci saremo, bisogna vedere. Se vuoi vacci, se vuoi vacci. Se vuoi vacci da solo, cioè... Mi sono già accreditato 9 volte. Allora vada Maristella, chiuda. L'intervento non voleva essere così fatuo e diciamo sbarazzino. L'intervento era molto più audace. Sì. Beh, poiché audace, io sono giudicare audace agli altri. Sì, sì, poi me lo dirà, caro dottor Cruciani. Sì. Perché io sono molto, molto inquieta. Sì. Sono, e voglio esprimere il mio disappunto. Cosa ha fatto, cara? Del giornalismo italiano. Sì. dei giornalisti che praticamente manipolano la politica italiana. Cioè, abbiamo gli spread che vanno alle stelle perché sul giornale si dice che Berlusconi aveva fatto qualcosa, adesso c'è Monti, non va bene neanche Monti, a me non andava bene neanche Berlusconi, a me veramente non va bene nessuno, sono tutti abbastanza, quelli precedentemente in carica erano tutti abbastanza incapaci, quindi a casa, come dice il dottor Parenzo, va benissimo, e sono andati a casa, però insomma diamo il tempo alle persone anche di fare, di lavorare, perché se li mettiamo sempre alla berlina, cioè se ormai adesso diciamo che Monti ha tirato la catena dello sciacquone 3 volte, invece la doveva tirare 5, perché quindi non è andato di corpo abbastanza, e quindi non è abbastanza. Non ho capito nulla, lo sa che non ho capito nulla di quello che cioè, qual è il problema? Qual è il problema? Il problema è che Cruciani, Parenzo, tutti questi personaggi, anche Santoro, tutti questi personaggi. Tutti questi personaggi tutti in cerca d'autore, in cerca tutti insieme appassionatamente state deliberatamente diciamo condannando l'Italia. Noi stiamo condannando l'Italia. Le sorti della politica italiana, cioè siete voi che decidete, siete voi che state decidendo chi andrà avanti, chi non deve andare avanti, quello è buono, quello non noi è decidiamo buono, chi deve andare avanti o chi non deve andare avanti. Mi pare leggermente ardita come cosa. Cioè è diventato un gossip di condominio il giornalismo, non fa più informazione, è una disinformazione destabilizzante. Benissimo. Dopo aver appreso dalla signora Maristella da Roma che noi destabilizziamo il governo, perché ci occupiamo non so di che cosa, del gossip, dei politici o di non so quali notizie che fanno traballare l'intero sistema istituzionale italiano, direi di far partire i titoli della 7. Questa sera non ce li abbiamo. Antonio da Parma, benissimo. Antonio da Parma, dica. Sì, buonasera, Cruciani. Prego. Ma io mi raggancio un po' al contenuto, anche se non nella forma dell'intervento precedente, nel senso che anch'io trovo criticabile, anzi un pochino isterico, dovrei dire, questo, come dire, già a poche ore dall'insediamento del governo, già avere questa perplessità sui tempi, ma se non sbaglio Monti ha avuto la fiducia delle Camere, mi pare venerdì. Sì, ma non è questione di fiducia delle Camere. Un consiglio di ministri. Lasci perdere, lasci perdere. Il tempo, no, ma il tempo che ha avuto. Sì, ma lasci perdere la fiducia. C'è stato praticamente. Partiamo magari dal giorno della nomina a senatore a vita. Uno potrebbe partire anche da prima, perché non è che Monti si è svegliato a un certo punto e ha appreso che lo nominavano senatore a vita. Fare un governo con tutti i problemi che sappiamo che ci sono. No, stati, no, ma io sono molto fiducioso. Non è come nominare un cappuccino, cioè qualcosa dal momento che è stato nominato e si è cominciato ad intuire che lui aveva, come dire, se c'era questo obiettivo, certo. Però direi che da quel momento al momento in cui il governo è entrato effettivamente nel pieno delle sue funzioni, un bel po' di cose da fare credo ci siano state. Da quando si sono effettivamente insediati, credo che abbia fatto la cosa più giusta e più utile in questo momento, cioè andare a confrontarsi in Europa. Perché se vogliamo riprendere un nostro ruolo, però no, lasciamo, ma va tutto bene, noi non abbiamo detto nulla di strano. Avete parlato di traccheggiamento. Un po' di traccheggiamento, abbia pazienza, ma non è che l'ho detto io, l'ha detto un ministro di questo governo che qui loro devono ancora imparare. Non è che l'ho detto io, l'ha detto il signor Giarda, cioè non, per cui, caro Marco, io ripeto, rimango della mia idea. Quello che ho detto sin dall'inizio, un governo cosiddetto di emergenza, perché così si è presentato, prende provvedimenti ora e subito, non c'è discussioni, non ci sono moltissime discussioni da fare. Idee chiare, ci dovrebbero essere idee chiare, magari ci sono, le apprenderemo. Per adesso però pare che le sappiano solamente la signora Merkel e il signor Sarkozy, che è incredibile. E noi non le sappiamo, però magari sapremo tutto domani o la prossima settimana, come ci ha detto adesso Formigoni, al massimo si può arrivare entro la prossima settimana. Però ripeto, mi aspetto qualcosa che innanzitutto non accontenti tutti, perché ho sentito anche delle dichiarazioni di Vendola al TG3 stasera sulla Fornero. benissimo sulle pensioni la Fornero. Già Vendola, che è d'accordo con la Fornero, mi fa capire che questa, che questi interventi sulle pensioni non sono poi così, sì, cioè non sono poi così drastici, no? Ce l'abbiamo Vendola sulle pensioni? Ce l'abbiamo Vendola sulle pensioni o no? Ce l'abbiamo, ma andiamo. Ma intanto ha usato toni inconsueti, una moderazione, uno stile nel ragionare su questa materia previdenziale che invece è stata oggetto di una sorta di isteria ideologica. Appariva che in Italia il grande scandalo di una storia di lungo periodo fosse il sistema previdenziale e non l'evasione fiscale, la eccessiva concentrazione non tassata della ricchezza. Bene, bene. Marco, vuole aggiungere qualcosa? No, chi era? Era Antonio, no? Antonio da Parma. Sì, Antonio. Potevo aggiungere un'altra di una battuta, Gatto, però il discorso di dire come prima cosa di mezzi numeri parlamentari, assolutamente no, perché sarebbe il modo per andarsi a impegolare subito in una situazione che non ha nessun effetto pratico, perché se anche si facesse questo provvedimento ovviamente gli effetti sarebbero dalla prossima legislatura, in compenso si potrebbe creare un bel pantano da cui invece non si trova il modo di fare le cose importanti e decisive, che sono altre. Scusi un attimo, ma non era il problema, uno dei problemi impellenti? Ci sono direttori di giornali molto prestigiosi che dicono che insomma, prima di imporre sacrifici agli italiani, poi vedremo di quali sacrifici si tratta, la cosa fondamentale da fare è quella di agire sui privilegi dei parlamentari o sulle camere o sul senato. Lo dicono prestigiosi direttori di giornali, che lo dico solo io. No, io non sono assolutamente d'accordo. Lei non è d'accordo? Questi, però mi sembrerebbe bizzarro. I parlamentari penso quasi tutto il male possibile, perché veramente... Però non bisogna diminuire il numero di parlamentari, ma se non lo fa un governo di emergenza, ma chi lo fa? Scusi, allora non è importante tutto, questa roba qua. Se non la propone, se non stimola i partiti su questo, è chiaro che non lo può fare concretamente. Se non stimola i partiti a fare una riforma, che governo di emergenza è? Prima di tutto, giustamente dice stimola i partiti, perché questo evidentemente è un provvedimento che deve partire la Costituzione, direttamente tutto dalla politica, e certamente non è il primo provvedimento, assolutamente. A parte il fatto che poi io personalmente, questa è una cosa molto soggettiva, non sono neanche d'accordo sul fatto che sia, ed è una tesi che è risaputa, insomma, c'è chi pensa che invece il numero non deve ridursi perché vuol dire perdere il collegamento col territorio. Non sono parlamentario, non faccio... Vabbè, devo dare la pubblicità però, grazie, pubblicità. Eccoci qui, 20:16, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Eccoci, pronti? Ce l'abbiamo i titoli della 7? Andiamoli, va. Nel vertice di Strasburgo, Monti incassa la fiducia di Merkel e Sarkozy sulle riforme anticrisi in Italia, ma è fumata nera, nerissima sulle politiche europee. Merkel dice no agli eurobond, non c'è intesa sul ruolo della BCE, Sarkozy furioso. Monti media, prima delle obbligazioni ci vuole l'unione fiscale. E la delusione sul mancato via libera agli eurobond si riflette sull'andamento dei mercati. Dopo un'apertura forte al rialzo, il vertice di Strasburgo provoca la caduta di tutte le borse europee, che azzerano ogni guadagno. Lo spread tra BTP e Bund torna al rialzo, il rendimento dei nostri titoli di Stato supera il 7%. Monti torna a Palazzo Chigi dopo il vertice, dopo aver promesso faremo i compiti a casa. La Merkel lo ha elogiato, impressionanti le sue riforme strutturali, ma in realtà la politica italiana ancora non sa contenuti e tempi del pacchetto di misure. È in clima surreale, i palazzi della politica si chiedono cosa contengano nel merito. Addio a quanto pare ai vitalizi per senatori e deputati. Le presidenze di Senato e Camera ne studiano alla fine a partire dalla prossima legislatura, in nome della riforma della spesa pubblica e del no ai privilegi della cosiddetta casta. E Libero attacca Monti, i fratelli massoni imbarazzano Mario. Nuova indagine su Marcello Dell'Utri, già condannato in appello per il concorso esterno alla mafia. Un pentito lo accusa di essersi offerto dopo le stragi del 92 come garante politico tra Stato e Corleonesi nella cosiddetta presunta trattativa tra Stato e Cosa Nostra. A Saponara, paese del Messinese sommerso dalla bomba di fango e acqua, due giorni fa si scava per recuperare i corpi della terza vittima, un operaio dell'acciaieria morto insieme al figlio 28enne. La gente ha perso tutto. Da domani, iniziativa di solidarietà anche per gli alluminati di Sicilia, un SMS da 2 euro. E tra poco qui nello studio del nostro TG ci sarà Serena Dandini a partire da gennaio per la prima volta su questi schermi. Ormai parleremo delle novità che prepara per il nuovo programma del sabato sera, ma anche dei due preserali del weekend. Eccoci qui, Matteo da Modena, 800 24 00 24. Matteo, dica. Sì, buonasera. Vada. Allora, a parte tutte le puttanate che ci tocca subire tutte le sere da parte sua, che dice, vabbè. Ma questa è buona, No, vabbè, perché lei fa sempre il solito giochino del bastian contrario, che tutto quello che succede non va mai bene. Sì. No, non comunque... dice una cosa e ride. Non ho... il giallo Caputo, senti, ma Caputo, all'alleanza dice, non so manco se è deputato, non è deputato, Pionati lo disconosce. Sentiamo. Lei è deputato? No. Sì. Però si vorrebbe candidare, diciamo. Io sono sempre candidato, non c'è problema. Il suo slogan per le prossime elezioni? Una grande Italia. Per una grande Italia al servizio dei cittadini. Grazie. Ancora. Di che partito sarebbe sto Caputo? Alleanza di Centro, si presenta come Alleanza di Centro, ma in realtà poi abbiamo chiamato Pionati, ma lo disconosce totalmente. Ma è in Parlamento o no? No, vuole diventare deputato, direbbe caldo. È bellissima sta storia, cioè spiegami, si aggira davanti alla Camera rilasciando dichiarazioni. Esatto, bravo, sì, esattamente così. È una storia meravigliosa. Caputo, sentiamo. Cos'è lui della Bocconi? È rettore della Bocconi. È stato rettore, ora che cos'è? Adesso è senatore a vita, è stato nominato dal presidente Napolitano, però... Dico, nella Bocconi, che ruolo ha adesso? Vabbè, siccome c'è incompatibilità, penso abbia dato le dimissioni. Ah, dice c'è incompatibilità con l'essere... Sì. Però lui era... Che cos'era della Bocconi per cui era incompatibile? Non mi ricordo questo. Dopo rettore cosa può essere stato? Professore di... Cosa c'è più di rettore? Il presidente della Bocconi. Presidente della Bocconi. Prima... Si ricorda chi fu prima presidente della Bocconi? Non mi ricordo. Spa? Spada la schioppa, sì. Spada alla schioppa. Allora, questo però non è deputato, vuole diventare deputato, non sarebbe molto diverso. Ce n'è qualcun altro, Marmo, un tale Marmo. Tale Marmo, sentiamo. Quando l'ha fatto lui questo come sempre? 2006, 2008, 2006. Quanti ne ha fatte? 8 anni Berlusconi, quindi 2006, credo nel 2006 molto probabilmente, 2005, 2004, 2006, non ecco in quel periodo lì. Che materia si sarà laureato sto Monti secondo lei? Lettere? No, assolutamente, no assolutamente. Scienze politiche? No, assolutamente. Matematica? Scusi, ma... Che si sarà laureato Monti, scusi, No, ma non ricordo, sa che non lo ricordo. Ma no, non avevamo capito. Marmo PDL su quando Monti è stato commissario europeo, eccetera, eccetera. Va bene. Lucio, è ancora lì? Sì, sono ancora lì. Isidori è il classico esempio della meritocrazia italiana. Attaccava i manifesti e adesso si prende 15.000 euro al mese. E vabbè, no? Lucio... Non lo so dire perché attaccava i manifesti, cazzo, no? E prende 15.000 euro al mese. Io cazzo, consiglierei di studiarmi un po' d'Ulbecco, no? Sì. Quando diceva, ha fatto una ricerca, d'Ulbecco, premio Nobel della genetica, sì. Diceva che l'apprendimento scolastico, sì, la capacità e la volontà sono solo corredo genetico, non sono merito, non sono meriti. Sono la predisposizione genetica. E allora? Ma dovete ancora capire questo. Non esiste il merito è alimentato da chi ce l'ha per mantenere il privilegio, no? Allora, vuol dire, voi pensate a quello che dicevo prima, no? Siete i più bravi, siete i migliori, dovete lavorare perché siete i migliori, per merito vostro, perché avete sudato, lavorato, avete conquistato il vostro sapere. Cioè lui dice che noi siamo qui solamente perché nel nostro codice genetico abbiamo avuto fortuna. Siete predisposti, siete stati predisposti a avere delle intuizioni, delle capacità. Vabbè, allora? Come la predisposizione all'arte, alla musica, alla poesia. Siete predisposti ad apprendere, ad avere delle capacità che altri non hanno, ma non per questo gli altri devono morire nella merda. Ma chi l'ha detto? Ma chi ha detto che devono morire? Ma chi ha detto? Perché voi dite sempre che non fa lavorare tutti, non bisogna far lavorare tutti. Ma chi l'ha detto? Chi la dice? Che lavorano tutti. Voi lo dite, lo ripetete, l'avevo sentito. Meno Stato, meno Stato, meno Stato. Meno Stato, va bene meno Stato, ma cosa vuol dire meno Stato? E allora lasciamo nella merda milioni di persone perché per alimentare i vostri privilegi? Ma lo sa, ma quali privilegi? Quali privilegi abbiamo? Ma i privilegi, ma lo sa che un colonnello che va in pensione e che passa subito generale solo di liquidazione ha 80.000 euro in più? Che so, colonnello io? Sono privilegi che nessuno tocca, voi non ne parlate. Ma che faccio, cose? Colonnello generale? Abbia pazienza. Poi scusi, lui, che faccio il colonnello generale io? No, ma anche lei ha dei privilegi, lei scrive, ma su, quale... su quattro, scrive su tre, su due giornali, fa due trasmissioni. Ma non mi, ma non, ma che vuol dire? Ma cos'è, un reato, scusi? No, è un reato, ma si, vorrà, si dovrà spartire questa ricchezza, si dovrà lavorare meno per lavorare tutti, no? Lavorare meno, lavorare tutti, questa non la sentivo da un sacco di tempo. Non è nuova questa, vero? Non è nuova, no, no, no, è un po' passatina, è un po' vecchiotta. Ma perché devo lavorare? Perché mi obbliga a lavorare? La ricchezza è ripartita in modo decente, l'economia va meglio, lo sa. Scusi, però Parenzo ha detto che lui per 5.000 euro... Io lavoro 7 giorni, ma perché lui ha detto che per 5.000 euro manco si alza la mattina. Ma posso lavorare di più? Io invece andavo a lavorare di notte... all'ultimo dell'anno andavo a lavorare a Natale per 2.000 euro, capito? Vabbè, io lavoro 7 giorni su 7. Vabbè, adesso Parenzo, non ti giustificare, hai detto per 5.000 euro manco mi alzo la mattina. L'ho detto scherzando. No, che scherzato, di la verità, per 5.000 euro. Non ho scherzato, è così. Ma è così, non vivo neanche per 2.000 euro. Non vivo neanche per 2.000 euro. Ma io certo non... Che si fa un mazzo così per 1.200 in catena di montaggio e voi idealizzate Bacchione, no? Che è lì che mezz'ora in più, mezz'a in meno, cazzo, no? Lucio, ma perché non fa il... Lei è spettacolare, perché non va insieme ai soliti idioti? Perché è un, sarebbe il, un terzetto fondamentale. Soprattutto... No, gli indignano se non gli piacciono, perché quelli invitano a non votare. No, i soliti idioti sono la persona indignata. Perché noi invitano a non votare quelli, no? No, questi sono idioti, non mi piacciono, però voglio dire, sa, è il lavoro che dà dignità alla persona, sa, non è andare in piazza. No, ma certo, ma certo, lei ha ragione, Lucio. Purtroppo è il lavoro che dà dignità alla persona, purtroppo la persona umana non vale niente. No, ma lei ha ragione perfettamente, però le voglio dire una cosa, Lucio, su questo, adesso per chiudere, Lucio Manisco. Per chiudere, non è Lucio Manisco, Lucio Manisco, sì, la pensava più o meno come o la pelle, ma è vivo, scusi, mi perdoni, la famiglia Manisco, è vivo. Io sì, ancora vivo, Lucio Marisco. Benissimo, non lo abbraccio fortissimo, abbraccio la famiglia, ho avuto un attimo di è quasi come fosse un fratello per me. Allora, però Lucio da Verona, le vorrei dire una cosa. Va bene, il lavoro sicuramente è una cosa pazzesca, cioè fondamentale, la dignità dell'uomo, senza lavoro l'uomo non è niente. Lei ha perfettamente ragione. Dopodiché abbiamo inventato una società che è la migliore possibile, che è quella occidentale, che è quella del mercato. Non c'è un'alternativa a questa società, che ne dicano altre persone. In questa società esiste purtroppo una sacca più o meno ampia a seconda dei paesi di disoccupazione. È difficile la piena occupazione, come lei pensa, è molto difficile. La piena occupazione mi fa un po' paura, è degli stati totalitari la piena occupazione. Le società occidentali, che sono il migliore dei mondi possibili, o comunque i mondi, il mondo che ha meno imperfezioni possibili, che è stato inventato fino adesso, e prevede purtroppo il fatto che ci sia la disoccupazione. Caro Lucio, resti con noi perché mi stassi molto simpatico, ex ferroviere se non sbaglio, giusto? Sì, facevo il capotreno. Il capotreno? Quanti anni? Una persona molto per bene, appassionata, e che dice giustamente che insomma, ci sono operai che guadagnano troppo poco, su questo ha ragione. Vabbè, ma se ti piace così, traffico. Ma ha ragione, su questo ha ragione. Se ti piace così, traffico. Eccoci qui per tirarmi su, caro Parenzo, da questa serata che va avanti dopo le frasi pronunciate da Merkel e Sarkozy. Le sue riforme sono impressionanti, le riforme dovrebbe farcele vedere anche a noi, ma lo ripeto per l'ennesima volta, vorrei risentire un po' di Grana Padano, anche con la musichetta di ieri. Ce l'abbiamo la musichetta di ieri? Sì. Rimandatemi la musichetta di ieri di Grana Padano, vi prego, su la musichetta di ieri. Vabbè, Sergio da Roma. Sergio, vada. Pronto? Sì. Buonasera. Vada. No, sono Diego da Bergamo, non Sergio da Roma. Vabbè, Diego da Bergamo è uguale. Buonasera. Su, avanti. Diego da Bergamo. Stasera mi ho messo un po' in croce quasi tutti. Niente, volevo dire ai radioascoltatori che non è facile che una trasmissione come la vostra, prima di tutto. Secondo me è una bellissima trasmissione, vi faccio i complimenti. Sì. Lei è molto oggettivo, molto spesso, Cruciani. Ma veramente non lo sono quasi mai, comunque. No, non è vero. Vabbè, comunque mi dica. Niente, è una trasmissione molto simpatica. Ogni tanto bisognerebbe, secondo me, prendermi un po' ammazzate questi politici. Fatelo voi, che noi non possiamo farlo, con le vostre parole. Siete bravi a farlo spesso, però ogni tanto siete persino troppo leggeri secondo il mio paese, parere. Niente, Monti, volevo dire una cosa, c'era necessario chiamare Monti per fare un governo tecnico. Berlusconi con le sue capacità non avrebbe, io non sono berlusconiano, non avrebbe saputo risolvere quali sono i problemi dell'Italia. Secondo me sì, il discorso che si è voluto far cadere Berlusconi, si è voluto tirare fuori Monti, che è una nuova personalità uscita. Che sì, si è però... voluto tirar fuori? Sì, è stato deciso un governo tecnico, il Presidente della Repubblica ha scelto Monti, però voglio dire... E fin qui ci siamo? Il buongiorno si vede dal mattino, come vi dicevate voi prima. Le riforme strutturali che ha chiesto l'Europa sono state un taglio della Repubblica e questa è una cosa Monti non l'ha fatto. Ha iniziato a battersi sulla gente. Niente, andate avanti così, vi piacete, però prendetevi ammazzate ogni tanto. Ammazzate, sì. Ammazzate, Lucio, infatti, ma c'è Lucio allora, mitico Lucio. Sì. Lavorare, com'era, come faceva lo slogan Lucio? Lavorare? Lavorare poco, lavorare meno, lavorare tutti. Ma dove sta parlando adesso? No, lavorare tutti, lavorare meno, lavorare tutti. Ma adesso che ha preso? L'interfono? Che ha preso? No, aspettate un attimo. Sì, pronto. Ha messo pronto. L'auricolare, che ha fatto? Ho messo l'altoparlante perché sennò ci fate venire il tumore al nervo acustico voi. È un'ora che siamo qua. Pensi al sottoscritto. Un'ora e mezza col cellulare. Ci fate venire il tumore. Pensi al sottoscritto. Il primario di Ottorino la regolata qui di Verona ha fatto un esperimento a orecchio aperto, ha messo un cellulare, dopo 10 minuti il nervo acustico si infiammava già. Pensi al povero Parenzo invece. No, non mi dica ma pensi al povero Parenzo. Sì, ma guardi che fa male sta Parenzo. Quello che non si alza, quello che per 5.000 euro non si alza la mattina. Tesoro mio, tesoro mio, io sono, è un anno e mezzo che dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 21, sto col cellulare attaccato alla, cioè, si rende conto di che cosa avrò nella testa ormai io. Sì, ma è pericolosissimo, lo sa questo, è pericolosissimo. Metta l'altoparlante, metta l'auricolare. Hai ragione. Ma la canzone della Padania ce l'abbiamo? Padania di ieri su, ma la prendete o no? Mamma mia. Roberto da Milano, Lucio resti lì che stasera lei è il mio idolo assoluto. Roberto da Milano, dica. Buonasera. Vada. Tre cose velocissime. C'è qualcuno che sostiene che questi sono andati a casa, ma sono ancora lì, non è andato a casa nessuno. Cioè, l'Italia non è un paese normale dove chi sbaglia o chi fa delle cose strane o manda come ha mandato il nostro paese nella situazione in cui si trova va a casa, è ancora lì, anzi sostiene di essere disponibile per cambiare, quindi non illudiamoci, non sono andati a casa. Secondo mi sembra che... Chi dovrebbe andare a casa secondo lei, scusi? Poi che significa andare a casa? Qualche ascoltatore dice li abbiamo mandati a casa, ma non abbiamo mandato a casa proprio nessuno, sono ancora tutti lì. Cioè è cambiato diciamo il capobastone, ecco, ma sono ancora tutti lì e tra poco ci accorgeremo anche di questo. Cioè torneranno, lei dice? No, sono sempre lì, non è che sono andati via, sono lì, adesso si sono per forza fatti un attimo da parte, ma sono ancora lì. Cioè sono lì che aspettano il momento giusto per colpire. Io so che Blair, voglio dire, è finito il suo ciclo, se n'è andato veramente a casa e fa altro. E questo è vero, questo mai è vero. A casa. Questo è vero. Secondo me i veri costi della politica non sono questi che ci stanno sbandierando davanti. Pensiamo a Finmeccanica, pensiamo a ENAV, pensiamo all'inchiesta Menarini, questi sono i costi. Cioè la corruzione, politica. Dice lei. Bravo, la corruzione. E caspita, vogliamo stare lì. Anche questo, certamente. Terzo, la invito un'altra volta a far partire la sottoscrizione per l'abolizione del gruppo misto. Aboliamo il gruppo misto, grazie. Adesso abolire il gruppo misto. Aboliamolo proprio. Aboliamolo. Va bene, d'accordo, ma non mi pare una cosa fondamentale. Il gruppo misto è un po' una sorta di limbo dove... Chi cambia idea vada a casa. Ma no, ma non c'entra nulla. Non si può cambiare questa cosa perché non sta nella testa delle persone, non è nelle norme. Non puoi imporre alle persone di restare in un gruppo parlamentare. In ogni caso non lo puoi imporre, è una questione di mentalità, è un'altra cosa. Caro Parenzo, ci sentiamo domani 18.30 alla Zanzara, sempre qui a combattere. A domani 18.30. Ma il Grana Padano perché si chiama così? O perché esiste il Gazzettino Padano? Hai detto che non esiste la Padania e invece la Padania esiste. No, ma la Padania esiste. È un modo per dire che se c'è questo termine, questa terminologia, è perché la Padania esiste. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. La Zanzara.